Come si chiama? Lina. Quanti anni ha? 87. Vabbè, 87 sono. C'è niente da fare. Vive qua Lizzana? Sì, tranquilla. Da quanti anni vive qua? Sono nata qui, però abbiamo girato un po' il Trentino col posto di lavoro. Da Lizzana è nata? Siamo andati in Valciugana, Pilcante, poi siamo tornati a Lizzana perché casa no, quando siamo andati in pensione. Ci vuole raccontare qualcosa? No, cosa vuoi che vi racconto? Siete tutti belli, guarda. Grazie. Che pensa di Lizzana? Di Lizzana? Perché? Di che tipo di Lizzana? Ci sono rumori forti, rumori strani. No. Un po' tranquillo? Cioè, ti piace? Poca musica, cioè, ci vorrebbe di più musica, del farti tenere più vivi. Sento su. E anche gli altri ce la mettono. Cioè, gli piace stare qua. Ha un posto preferito di Lizzana? Sono nata qui, giustamente. Ci sto, eh.